io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, sono partito poi così d'improvviso, che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. Arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera, e parlo come le foglie d'aprile, e vibro dentro ad ogni voce sincera, e con gli uccelli vivo il canto sottile. E il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito, che sono chiare come stelle cadenti, e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sai, tramonto di sera, e parlo come le foglie di aprile, e vibro dentro ad ogni voce sincera, e con gli uccelli vivo il canto sottile, e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. E manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera. Non sai rinunciare e allora vai. pensaci bene, non resti o vai. Pensaci bene, non resti o vai. Passione. Basta poco per ripetere. cominciare. Basta poco, la musica del mare. Basta poco, ma è importante quel minuto per diventare grande, non cambiare. Andare. Non cambiare, non lasciarti andare. E c'è, non cambiare, non lasciarti andare. finalmente ho vinto. Ci sono finiti i guai, non mi vergogno, pianto. Tu non puoi sapere che cosa mi è costata lei, neanche immaginare, mi sono superato, sai. E a non pensare più, le nuvole sul mare se ne sono andate, con un vento che mi porta su come un ascensore, e stavolta non ricado giù. Molto strano, se non amo come gli altri, sono io troppo insicuro, se lo ammetto sono sincero, ma non trovo così assurdo se ogni tanto mangio lacrime e mi perdo. Sì, ma tu dici ancora sono stanca, c'è qualcosa che mi manca, ho il cuore un po' confuso, chissà un giorno se mi sposo, ma io godo di un vantaggio che ora tu non metti a fuoco, perché tu non hai coraggio, perché sei un po' bugiarda, non tuoi sconnessi, i tuoi nervi sempre scossi, e il tuo caffè sempre più amaro, il suo colore come il tuo futuro, i tuoi pensieri sono sempre pigri, i tuoi guadagni quasi sempre magri, e le tue storie che non hanno un senso, e io sto male solo se ci penso che sei strano, se non amo come gli altri, sono io troppo insicuro, se lo ammetto sono sincero, ma non trovo così assurdo se ogni tanto mangio lacrime e mi perdo. Sì, ma tu dici ancora sono stanca, c'è qualcosa che mi manca, poi il cuore è un po' confuso, chissà un giorno se mi sposo, ma io godo di un vantaggio. E ora tu non metti a fuoco, perché tu non hai coraggio. Sento già un intruso fuori oramai. cosa tu sei, impenetrabile. Ma dimmi quale mondo sei, ma dimmi nel profondo chi vuoi. Uccide più un sospetto, sai, della verità più brutta per noi. Sei l'immagine di quello che vorrei, ma non dirmelo. Si dovrebbe aver fiducia tra di noi, ma non aver riserve mai. Purtroppo è sempre così difficile. Come mai è da un po' di tempo che non ti penso, mi domando come mai. Non capisco cosa in noi oramai non ha più senso, non capisco come mai. Se davvero ho bisogno di una donna o se sto più bene solo. Mi domando se l'amore è nelle pieghe di una gonna o se è sparso per il cielo. Tu non guardarmi come fai, spegni subito il tuo odio. Non c'è colpa e tu lo sai. Senti un po' anche tu, chiusa dentro ad un armadio, sii sincera come sei. Io mi domando come mai ho nel cuore l'infinito, dove non si muore mai. Ho capito dentro me, non c'è un volto disegnato, eppure tu nel centro sei. Averti, credimi, è per me una gran soddisfazione. Amar di più io non potrei, però rinchiuso dentro te farei la fine di un leone su una poltrona, avere te. Io mi domando cuore l'infinito, dove non si muore mai. Ho capito dentro me, non c'è un volto disegnato, eppure tu nel centro sei. Che non ti penso, mi domando come mai. Non capisco cosa in noi ormai non ha più senso, non capisco come mai. Just about you to show. quel che dici tu lo sai però, senza dubbio non reggo, ma tu sarai uno straccio, già ti vedo già. A chi tu morderai le labbra sue come facevi a me. No, davvero non può finire una storia così, una storia così.